Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti quanti presenti e tutti quanti che sono presenti virtualmente per la seconda parte della lezione Tefilà. Come detto l'altra volta, la lezione non è un approfondimento molto profondo del significato della Tefilà e di tutto ciò che c'è dietro, più una lettura per aiutare a leggere correttamente e cercare di capire il significato semplice delle parole che si dicono nella tefillah per rientrare nel livello più base del concetto na, intenzione, e cioè il senso di semplicemente capire quello che si sta dicendo. Allora, siamo arrivati nella edizione Morasha, pagina 10, nel libro tradotto. Yehi Ratzon, il penultimo paragrafo sulla pagina, dove noi chiediamo un aiuto ad HaKadosh Baruch Hu per la nuova giornata che stiamo per affrontare, e chiediamo Yehi Ratzon Milefanecha, sia la tua volontà, Yehi, sia Ratzon. Ratzon vuol dire volere, volontà, Milefanecha, dinanzi a te, cioè sia la tua volontà. Hashem Elokai Veloke Avotai, Eterno Dio mio e Dio dei miei padri, perché spesso invochiamo il merito delle Avot, e cioè dei nostri patriarchi, Shetazilleni Ayom Uvchol Yom, di salvarmi oggi, Ayom, Uvechol Yom, e ogni giorno, ogni altro giorno, Me Azze Panim u Me Azut Panim. Azei panim sono gli sfrontati e azut panim è la sfrontatezza. Ok? Poi chiediamo un yetzerara e dalla inclinazione verso il male, lo yetzerara famoso, un meadamra da qualsiasi persona cattiva, un mishachenra da un vicino malvagio, un milashonhara, salvami dalla lingua malefica, dalla maldicenza. Umi Satan Hamashit, dallo spirito corruttore. Umi Din Kashè. Din cosa vuol dire? Giudizio, ma in questo caso è più come litigio. Mi Din Kashè, da un duro litigio. Kashè è duro, difficile. Umi Baal Din. Se il Din è litigio, il Baal Din è il litigante. Ok? Quindi umi baal din kashè, e da un litigante ostinato, che sia egli ebreo o non, ben shehu ben berit, che sia correligionario, ben berit, quindi appartiene allo stesso patto, uven e sia sheino ben berit. Qui abbiamo diverse forme della parola ben, perché ben significa figlio, bet nun, però ben bet yud nun significa sia. Sia che sia un ben berit, sia che non sia un ben berit. Quindi attenzione all'esattezza delle parole. E poi si conclude: salvami da umidina shel geinam. Salvami dalla condanna del geinam, cioè del purgatorio dopo la morte. E qui in realtà conclude questo paragrafo. E la seguente berachah, secondo me è sbagliato che fa parte dello stesso paragrafo, dovrebbe essere un paragrafo a sé, perché introduce le berachot della Torah, è un nuovo tema, non è legato, non credo sia legato a quello che è scritto prima. Quindi in realtà qui ci dovrebbe essere, a mio avviso, una pausa, nuovo paragrafo, andare a capo della riga. Perché c'è, come ci avevi detto, l'Enu Melech Olam, no? Esatto, esatto, è una brachah intera di per sé. Qual è questa berachà? A questo punto abbiamo nel nostro libro di Tefilà la sezione che si chiama Birkot HaTorah, le berachot relative alla Torah. Cosa significa le berachot relative alla Torah? Sì, qual è la domanda? Per capire, quando parla del Lashon Hara qui, no? Sì. È inteso che io non devo, che io non faccio la Lashon Hara o che non riceva la Lashon No, Hara? in questo caso è inteso che io non sia oggetto di Lashon Hara. Ok, In non questo subisco. paragrafo sono tutto qui, Shetazileni, salvami da non subire Ah, tutta questa lista di cose. Quindi la domanda era: Lashon Hara passivo. Se qui è inteso in senso passivo, di non essere soggetto di Lashon Hara. Ok? Per ciò che riguarda invece la nostra richiesta di non cadere noi nel peccato, questo lo si è fatto prima, nel primo Yehi Ratzon, pagina 8 in questa edizione, dove noi chiediamo di non cadere nel peccato. Al Targileni Dvaraveravavon, Vashet Ashlet Bi, Ezerara, Ashlet Bi, Ezertov, eccetera. Ora, le brachot della Torah, noi abbiamo un obbligo che i Chachamim hanno imposto, che prima di studiare la Torah dobbiamo recitare le relative berachot. Prima di fare una mitzvah, la maggior parte, una gran parte delle mitzvot, ora non entriamo in tutto il discorso quali mitzvot hanno una berachah che li precede e quali mitzvot non li hanno, ma normalmente una mitzvah positiva che richiede un'azione concreta ha una berachah che lo precede. E, qui abbiamo una berachah per studiare la Torah. HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la Torah, noi ringraziamo HaKadosh Baruch Hu per averci dato la Torah e facciamo appunto una berachah relativa a questa mitzvah. Qual è la berachah? Allora, innanzitutto, la prima berachah che ha la formula classica delle berachot della mitzvot, delle mitzvot, e poi ulteriori due berachot. Quindi abbiamo in tutto tre berachot che rientrano nel gruppo, nel subgruppo, diciamo così, del Birkot HaShachar, che si chiama Birkot HaTorah. Prima berachah, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Qui conclude una berachah, se siamo al Tempio e sentiamo questo, bisogna rispondere Amen, perché è una berachah. Quindi qual è questa berachah? Benedetto sii tu, o eterno Dio nostro, re dell'universo, quindi la formula classica, asher kideshanu, che ci hai santificato con i tuoi precetti e ci hai comandato lo studio della Torah. Prima berachah base, proprio grazie che ci hai dato questa mitzvah di studiare la Torah. E poi, prossima berachah, che è anche molto molto poetica. Vediamo cosa dice. Ve'ha'arev na. Ora facciamo una richiesta. Per favore, na significa per favore, è una richiesta. Na indica sempre una richiesta. Ve'ha'arev, rendi piacevole. Arevut significa piacevolezza, ok? Quindi ha'arev na, per favore rendi piacevole, Hashem Elokeinu, o Signore, Eterno nostro Dio, et divrei toratcha befinu, per favore rendi piacevole le parole della tua Torah alle nostre labbra. Befinu significa letteralmente nella nostra bocca. In italiano è più corretto dire le nostre labbra, però il senso è chiaro. U befefiot amecha bet Israele. Non chiediamo, non siamo gelosi, no, chiediamo che sia per tutto Am Israel così, non solo per noi che stiamo dicendo, ma per ognuno, per le labbra di tutto il tuo popolo Israele. E quindi una cosa è studiare la Torah, un'altra cosa è sentire la piacevolezza, la dolcezza delle parole della Torah sulle nostre labbra, quindi apprezzare proprio che lo studio della Torah sia un evento piacevole, che una persona abbia la possibilità di dire adesso devo staccare un attimino perché mi manca qualche parola di Torah, e sentire proprio la dolcezza, il miele che cola dalle parole della Torah. E poi la richiesta, venie anachnu, e che potessimo essere noi, vezezaenu, e i nostri discendenti, vezeza e zezaenu, e i discendenti dei nostri discendenti, vezeza e amecha bet Israel, e i discendenti di tutto il tuo popolo Israel, che potessimo essere tutti che cosa? Kulanu yirei shemecha, che potessimo essere tutti timorosi del tuo nome, Hashem, velomede toratecha lishma, e studiosi della tua Torah lishma. Lishma significa senza altri scopi, solo per il fine di unirci ad Hashem attraverso lo studio della Torah. E questa berachah conclude dicendo Baruch Ata Hashem La formula classica, benedetto sii tu, Hamelamed Torah Leamo Israel, che hai insegnato o che insegni la Torah al tuo popolo, al suo popolo Israel. Questa è la seconda Berakha. La terza Berakha, che si riconoscerà anche come la prima Berakha che si dice quando si va a Sefer, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Bacharbanu Mikol Amim, che hai eletto noi tra tutti i popoli, Venatan Lanu et Torato, e hai concesso a noi la tua Torah, Baruch ata Hashem Noten HaTorah. Benedetto sii tu, Noten, colui che ha dato, che dà, presente, che dà la Torah, Noten, colui che dà e non colui che ha dato in passato, e questo chiaramente è molto esatto, perché come dice, come dicono i Chachamim, quando nel momento in cui si è introdotta nella Torah il momento del dono della Torah, cioè il momento in cui ci trovavamo tutti ai piedi del monte Sinai ed eravamo pronti a ricevere la Torah, c'è scritto Vaidaber, il Signore parlò et advarim haele, queste seguenti cose, lemor. Lemor, cosa vuol dire la parola lemor? Lemor significa letteralmente per dire, cioè che sia poi ripetuto. Normalmente quando è scritto il Signore parla con Mosè, lemor significa che Hashem parla con Mosè, in modo tale che Hashem, che Mosè poi riporti, quindi ripeta queste parole a tutti gli altri. I maestri si chiedono, si pongono la domanda, se eravamo tutti presenti ai piedi del Monte Sinai ed eravamo tutti lì per sentire le parole delle Aseret HaDiberot, che Hashem pronunciava le parole dei 10 comandamenti, allora per quale motivo deve essere scritto l'Emor da ripetere se siamo già lì? No, tra l'altro poi ci si dice pure da bere il bene Israele, se dici l'Emor è ovvio, che, perché devi dire l'Emor? In questo caso non è scritto da bere il bene Israele. No, però in generale c'è scritto così. Non sempre. Non sempre, però in senso letterale non è un problema, perché da bere il bene Israele l'Emor parla ai figli di Israele così dicendo, si traduce così, anche il lemor. Il contrario, vabbè, comunque. Non so. Anche il contrario. Lo Shema c'è scritto, per esempio. Cosa c'è scritto? Vai da Bel Adonai Moshe lemor, da Bel el bene Israele. Perfetto. Il Signore parlò a Mosè dicendo, letteralmente non c'è problema, il Signore parlò a Mosè dicendo la seguente cosa, vai a parlare con i figli di Israele. Sì, però è il senso di lemor che è lo stesso. Ti rispetto, il senso letterale della parola lemor non mi crea un problema. No. Perché vuol dire dicendo. No, non perché c'è scritto, perché si capisce che vuol dire dicendo. Però il senso ulteriore della parola lemor, che significa per dire, quando nel momento in cui sto lì non serve quel senso là. Nel senso è come se dovesse essere tramandato. Esatto, però se siamo già lì, allora i maestri dicono l'emor è riferito non a quel momento lì solamente, certo, come il senso letterale, ma a ogni volta in cui un ebreo apre un libro e studia la Torah, l'emor Hashem ripete a lui la Torah. Cioè, in altre parole, il dono della Torah è una cosa costante. In qualsiasi momento che un ebreo studia la Torah, è come se Hashem in quel momento gli stia dando e rinnovasse il momento del dono della Torah. Ecco perché alcuni maestri spiegano, abbiamo il termine che abbiamo usato, noten ha-Torah, colui che dà la Torah, cioè non colui che ci ha una volta dato la Torah, ma colui che ora ci dà la Torah, che ora in questo momento noi dobbiamo considerare la Torah come un nuovo documento che ci è appena giunto dal re, che ci dice, ecco, c'è una novità, andiamo a vedere cosa c'è scritto. È come se fosse sempre presente. Sì. Sempre presente. Sempre una cosa. Se una cosa passata si rischierebbe a livello psicologico, non è una battuta. Sì, perché sì. C'è la data, sì, c'è una cosa. Esatto. Cioè, contestualmente, tutte le volte, tutti i giorni, tutti i lunedì. Ogni volta che leggiamo lo Shema, ogni volta che studiamo qualsiasi, non solo quando c'è la lettura del Sefer, ma qualsiasi aspetto della Torah. Esatto, e Torah in senso molto generale, Mishnah, Talmud, Hasidut, qualsiasi cosa che si studia, rientra nel termine generale di studiare la Torah e va visto come qualcosa di attuale, di nuovo, che ci è stato donato ora in questo momento. E noi ringraziamo dicendo Noten HaTorah, colui che ci dà la Torah. E queste Berachot ci aiutano a ricordare che lo studio della Torah, come abbiamo detto nella Berachah stessa prima, l'Ishma è lo scopo stesso dello studio. Cioè, lo studio della Torah ci fa diventare più intelligenti, ci fa capire tante cose, eccetera, eccetera. Beh, Maria ancora non fa tutto questo effetto. Però, non è questo lo scopo dello studio della Torah. Lo scopo dello studio della Torah è, perché la Torah è la saggezza di HaKadosh Baruch Hu, e attraverso lo studio della Torah noi ci leghiamo all'Eterno, ci leghiamo ad HaKadosh Baruch Hu. E di conseguenza sarebbe folle se una persona si vantasse della propria conoscenza della Torah. Perché? Perché allora non sta studiando la Torah, sta studiando se stesso, sta rendendo se stesso più grande. Lo studio della Torah è qualcosa che, quando è fatto con la giusta Kavanah, è anticipato dalle Berachot, è infuso dalle Berachot dello studio della Torah, allora è una cosa che non può non portare all'umiltà, perché la persona riconosce sempre che c'è dietro il Noten HaTorah, colui che ha dato la Torah, e che non è, e che senza quel legame non è davvero più una cosa divina. E quindi questo, il momento in cui noi diciamo la Berachah della Torah, subito citiamo dei passi dalla Torah. In generale la Halakha richiede che prima di studiare Torah si facessero le Berachot della Torah, ogni giorno. Per questo motivo noi la mattina, prima di studiare Torah, e ormai è incluso nel libro di Tefillah, nelle Birkot HaShachar, come stiamo vedendo, bisogna dire le Berachot della Torah, e per non dire la Berachah così a caso, si dice subito qualcosa di Torah. Chiaramente uno dovrebbe anche nel corso della giornata studiare altra Torah e non appoggiarsi solamente a questo, ma la base di uscire l'obbligo, tra virgolette, dello studio della Torah già si ottiene facendo questo. Poi chi ha più possibilità è obbligato a studiare di più, possibilità sia a livello di tempo che a livello di conoscenza. Non si può appoggiare solo su questo, però per la base si esce l'obbligo con questo. Basta dire questo, uno esce l'obbligo dello studio della Torah. Se non ha altre possibilità. Sì, certo, per questo motivo è steso così, diciamo, nello Sidur. Ah. Qual è il primo brano che noi recitiamo? È il brano relativo al Korban Tamid Shel Shachar, cioè il sacrificio quotidiano mattutino a cui corrisponde la tefilà di Shacharit. Quindi questo è il brano scelto per rientrare nel concetto di studio della Torah. Sì? Quindi, qual è la domanda? Che io esco d'obbligo, esco d'obbligo. Dico la Berachah, non dico la Berachah in vano, perché leggo subito dei brani di Torah. Torah. Sì. Quindi se io poi durante la giornata dovessi rileggere altri brani della Torah, non dovrei però ridire la Berachah? Assolutamente no, questa Berachah vale per tutto il giorno. La Berachah della Torah vale per tutto il giorno e non va ripetuto nel corso della giornata, se non che uno prende una chiamata a Sefer, allora lì c'è una Berachah per ancora per l'importanza di leggere dal Sefer stesso, c'è la Berachah ripetuta e la Berachah conclusiva della lettura del Sefer, eccetera. Ok, altre domande? Sì, sempre su questo. Sì? Sì? Perché comunque, per esempio, noi se diciamo una Berachah sul frutto, a parità di Berachah, noi diciamo una Berachah sul frutto dell'albero. Sì. Con l'intenzione che mangio in quel momento il frutto dell'albero. Sì. Però dopo, se dopo un po' rimangio un altro frutto dell'albero, visto che la prima Berachah non avevo intenzione di uscire anche con quell'altro frutto che avevo mangiato 20 minuti dopo, però io la, okay, la Berachah la devo rifare. Allora, la Berachah della Torah non è paragonabile alla Berachah per un cibo, che dopo che hai finito di mangiare e vuoi mangiare qualcos'altro, rifai la Berachah. Quella è un'altra categoria di Berachot, che è la Birkot HaNe'enin, le Berachot per ciò che, di cui noi godiamo materialmente, ed è un'altra categoria di Berachah. La Berachah della Torah è una categoria particolare, che sono le Berachot delle Mitzvot, ma anche tra le Berachot delle Mitzvot la Berachah della Torah è particolare. Perché? Perché non è facilmente definibile. Se io dico faccio la Berachah prima di fare la Mitzvah dell'Ulav, è chiaro quello che devo fare. Faccio la Berachah, prendo in mano l'ulav e ho fatto la mitzvah. Nella Torah non si pone limite. Non è che tu dici, devi, per dire la Berachah devi studiare più di 3 parole e meno di 40 parole. Non esistono queste misure o volumi o limiti nello studio della Torah. Quindi abbiamo la Berakà all'inizio della giornata, che è proprio pensata in maniera di coprire tutto ciò che si studierà nel corso della giornata. Quindi diciamo che la Kavanah, l'intenzione è sì per tutta la giornata. Okay. E non si ripete durante la giornata, come ho detto prima, se non che si va ad essere chiamati a Sefer. Ok? Quindi vediamo solo questo ultimo, questo brano qui. Un shalema parim sefateno bimkom korban tamid shel boker. Cosa significa questa frase? Innanzitutto leggerla chiaramente. Un shalema parim sefateno bimkom korban tamid shel boker. Questa è una introduzione al brano di Torah di cui parlavo prima, che è il Korban quotidiano del mattino, a cui appunto corrisponde la Tefilah di Shacharit. È un augurio, questa introduzione è anche un augurio, che sta dicendo letteralmente le seguenti parole: le nostre labbra compenseranno le offerte di tori al posto del sacrificio quotidiano del mattino. Cosa significa? C'è un versetto che dice un shalema parim sefatenu, che in senso non letterale significa che le nostre labbra, ovvero quello che noi recitiamo con la semplice parola, ci auguriamo che possa essere al posto di ciò che non possiamo fisicamente fare. Visto che non abbiamo il Beit HaMikdash e non possiamo portare le korbanot, allora i maestri applicano questo versetto a questa situazione e dicono: nel momento in cui parliamo delle korbanot, perché l'unica cosa che possiamo fare oggi relativamente alle korbanot è parlarne, approfondire, citare quello che è scritto nella Torah a riguardo, allora viene considerato come se avessimo offerto il Korban stesso. Quindi un shalema parim sefatenu, le nostre labbra compenseranno per i tori, parim sono i tori, cioè è un termine per indicare in generale le korbanot. In questo contesto, ripeto, non è il senso letterale del versetto, e aggiungiamo bimkom, nello specifico, al posto di, che cosa? Korban tamid, il korban quotidiano, shel boker, della mattina, perché siamo nella mattina, stiamo facendo shacharit, che corrisponde a quel korban, a quella funzione nel Beit HaMikdash. E qui si legge appunto questo brano che parla del korban tamid, che parla del korban che si portava nel Beit HaMikdash ogni giorno dell'anno, uno la mattina e uno la sera, tamid shel boker e tamid shel ben arbaim, tamid della mattina e tamid della sera. Sì, qual è la domanda? La frase è così come è tradotta, no? Le nostre labbra compenseranno le offerte, è come prendere una dichiarazione che noi facciamo riguardo quello che vorremmo fare, piuttosto è, in realtà è più una richiesta. È quello che volevo. Sì, non è tanto una dichiarazione, può essere anche una dichiarazione, sì. Io la vedo più come una richiesta, perché sarebbe un po' presuntuoso dire e questo è così, però la vedo più come una richiesta, però non è che non può essere considerata un'affermazione, che le nostre labbra possano o sì, compenseranno, sì, credo che sia più così. Allora, leggiamo solamente questo brano, Vai da Ber Adonai el Moshe Lemor, l'Eterno parlò così a Mosè, no? Zavet Bnei Israel, ordina ai figli di Israele, ve amartà alehem, e di loro, et korbani lachmi leishai, e cioè di adempire al mio sacrificio, che è considerato lachmi lechem, il mio pane, quindi il mio alimento, le ishai, da consumare sui miei fuochi, quindi il fuoco che sta sull'altare, reach nichochi, è un profumo a me gradito, tishmeru, fate attenzione, le akriv li bemoado, di offrirlo a me nel suo momento. Moed significa un momento. Beh, Moadò, ogni korban nel suo momento giusto. Ve amartà lahem, e dirai loro, ze ha ishe, questo è il sacrificio che sarà consumato nel fuoco, ishe da esh, da fuoco. Asher takrivu lashem, che offrirete in onore di Hashem, che vasim benei shana temimim, due agnelli nati nell'anno senza difetti, tamim significa integro, senza difetto, shnaim layom, due al giorno, ola tamid, come sacrificio quotidiano. Ola significa il sacrificio che viene totalmente consumato, da qui la parola ola, che nelle fonti italiane si traduce con olocausto, quindi qualcosa che viene completamente consumato. Questi due agnelli quotidiani in che modalità? Et ha keves echad, ta seba boker, uno lo sacrificherai la mattina, veta keve sasheni, e il secondo agnello ta se lo sacrificherai ben ha arbaim, il pomeriggio verso sera. Poi accompagnano questi korbanot anche l'aspetto farinaceo, va sirita efa, un decimo di efa, solet di fior di farina, le mincha sarà come offerta farinacea, belula beshemen, impastata con dell'olio, katit, olio che viene da d'oliva pigiato, quanto olio? Revita hin, un quarto di hin, revit ha hin, non hain, come sento a volte qualcuno produce, pronuncia ain, non è ain, è ha hin. L'enfasi è posta sulla parola in, non sulla, sull'indicativo ha, ha in, di un in, un quarto di un in, o la tamida suyabe arsinai, e questo sarà considerato una ola, quindi un korban quotidiano, come è stato fatto sul monte Sinai, le reachni choach ishel Hashem, perché Moshe Rabbeinu aveva fatto delle korbanot sotto il monte Sinai. Veniscorri viita in, e niscò la sua libagione, dalla parola nesech, nesech è una libagione di vino, che anche accompagnava le korbanot, quindi c'è l'offerta, c'è la parte animale, c'è la parte farinacea del mondo vegetale, e c'è la parte anche della libagione di vino, quindi anche qui un quarto di hin, la kevesa echad per ogni agnello, bakodesh. Nel santuario Nesech Shechar Lashem, una offerta di vino inebriante in onore di Hashem. Beta Keves Hasheni, e la stessa cosa però riguardo la seconda fase, quindi il secondo agnello Taaseh Ben Arbaim, sarà fatto verso sera, che Minchat Aboker Ucheniskot Taaseh, esattamente secondo la stessa formula della Minchat della mattina e del Nesech della mattina, quindi l'offerta farinacea e la libagione di vino è uguale, è tutto ripetuto, tutto consumato fuoco e profumo gradito in onore di Hashem. Quando è Rosh Chodesh a Roma si usa, che si aggiunge anche il seguente paragrafo, che nella Torah è anche il seguente paragrafo, riguardo al sacrificio di Rosh Chodesh. Vi auguro una buona giornata e, se Dio vuole, la prossima volta proseguiamo. Thank you.